Radio 24 ed Eni presentano Passione Africana, reportage a cura di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Partenza di buon'ora sulla via del Ghana con un grande pullman costruito in Cina. Aria condizionata al massimo contro il caldo che batte la costa del Golfo di Guinea. Abidjan è alle spalle, la frontiera di Noè e Luboe vicina, nel mezzo le piantagioni. C'è solo il tempo di gettare uno sguardo amaro alle spiagge di Gran Bassane e Assigné, dove già nel 71 venivano costruiti i prototipi di tutti i villaggi vacanze africane e oggi, causa incertezza politica, si resta sospesi nell'attesa degli eventi. Raggiunto il fiume Tano e il confine del Ghana. Tutti in fila per il controllo che, a dispetto della leggera agitazione che mi prende ogni volta che devo passare una frontiera africana, si svolge rapidamente. I miei compagni di viaggio sfilano veloci, mostrando documenti degli ECOWAS. Sono i 15 stati compresi tra Senegal e Nigeria. Il mio passaporto è accolto con cortesia e mi viene subito restituito con un timbro in più. Giusto il tempo di cambiare i franchi CFA con i sedi del Ghana e si riparte. Il viaggio riprende e il paesaggio resta uguale, ma lingua, soldi e musica nel frattempo sono cambiati. In una terra che da un lato all'altro della frontiera è abitata da contadini di gente a Cannes, è stata varcata la soglia invisibile della storia coloniale fissata nell'Ottocento tra le potenze europee. Partito al mattino nel segno di Calypso francese, mi avvicino alla terra degli Ashanti con Radio Peace, che parla inglese, che parla il Twi, un dialetto a Cannes parlato da un terzo dei 25 milioni di ghanesi, e che trasmette soprattutto musica religiosa di ispirazione protestante. Arrivo nel pomeriggio a Takoradi, che è il porto occidentale del Ghana e ora anche la base operativa della nascente attività petrolifera offshore. Gli alberghi sono pieni, i prezzi alti. Nella hall incappo nell'unica religione che unisce davvero tutti gli africani. I celebranti qui sono le Black Stars, le stelle nere della nazionale di calcio che, a cominciare dai Siena, Pia e Montari, vengono seguiti in tutti i campionati del mondo in cui sono dispersi. Box eardrums. You're a music brew in Africa. Inspiration for the Black Stars of Africa. H mode for the Black Stars Ghana. Box your eardrum. Freedom! Freedom! Freedom! 6 marzo 1957. La Costa d'Oro, guidata da Kwame Nkrumah, diventa il primo paese dell'Africa nera ad accedere all'indipendenza. Oggi è il tempo della libertà, dice il leader africano alla folla. Domani, annuncia, costruiremo insieme gli Stati Uniti dell'Africa. This decade is the decade of African independence. Tomorrow, the United States of Africa. Di fronte a Martin Luther King e al vicepresidente Richard Nixon ci sono i diplomatici di mezzo mondo e lo Stato Maggiore dei non allineati. L'Union Jack lascia il posto alla stella nera in campo giallo. Il Ghana, un nome che evoca un antico regno africano, nasce dalle ceneri della Costa d'Oro. Sulle orme del Ghana, tra il 58 e il 64, ben 24 paesi africani assaporano il gusto dell'indipendenza. La stella nera di Kwame Nkrumah diventa il simbolo di un'Africa libera nel nome di un leader carismatico che, come recitano le biografie ufficiali, è rivoluzionario e politico, figura di spicco della storia della decolonizzazione e del panafricanismo. Non era solo un leader dell'indipendenza del paese, ma anche era un panafricanista molto forte. E si può dire che era il leader che ha promosso l'unità del continente con il suo, diciamo, energia e aiuto alle organizzazioni dell'unità africana è stata nata.